non più, ed infamatori i sacrifici compiti sono. Andate, e alla caccia annuale dedicata alla dea vi preparate. Melibeo, mio gentile, or Fabio sappia tutta l'istoria di questi mali, per cui pietà cerchia. Come, tu nulla sai, io tutto ignoro. E ben. Leggi in quel marmo, e poi frena il tuo pianto, se frena lo puoi. Ogni anno il mostro abbia due figli amanti, invece non sia quella stessa morte, volontaria si espona un'alma forte. Voi pagio avrete, e cesseranno pianti. Dio di onor, ma di quel mostro parla. Dirò, giace ci volte nel vicinato, un'empia ferra parve, e tanto tante volte vi tributo di ninfe di pastori, che erano fra noi più figli amanti. Ed oggi, dopo due giorno che sposti alla sua fame, le due vittime attende il mostro infame. Cospetto, il far l'amore in questi luoghi è cosa molto seria. Non temer, idol mio, che tale legge fatale se ti sono ministri del tempio. Respiro, e sei così, ma che pavione! Dunque, m'adori! Adoro! Io vado matta per te, mio Melibeo! Potentissimo amor, grazie ti rendo! Tu vuoi la pulla, ed io ti sto servendo! Perché mi rompavi? Perché vogliamo no! Vuoi dirmi, ingrato, pelino, disgraziato, che arde d'amor per cielo e mi disprezzi? Ma se giungi a sapere... Che diavolo hai? Cos'è? Che cosa fu? Tu pur lo sai che da lingolo in filo voi vivete tradito, che già di cielo in marito io rimeno sicuro. Ma se tu lo sostieni, un divento volete che in vano li rompio voi agirete. Melibeo, a dispetta di quella impertinente, voglio che Celia sposi mio fratello. Dici bene Amaranta, ella mi piace e mia sposa sarà. Ti aggiungo ancora, se sposarla dovessi per un mese,